Assai mi buono. Prova. Non capisci mai alla prima, manda me giù, fammi risentire. Eccolo, prova, 1, 2, 3. Come la timbrica, buona? No, non ho le cuffie, non ne ho cuffie. Cioè ce le ho ma non sono remote, dai. Avevo avuto un coso, avevo fatto da ponte d'aria, dove è fatto la faceva un circuitino e ti facevo la ponterale, insomma, c'è venivo di alta palestica, perché quando c'erano due apparati con miscelatore, cioè non miscelatore, la gente va a fare la ponte con il piccolo, quindi non bene. Quindi è il nostro che fino abbiamo fatto. L'autorizzazione per mettere un'altra fisiologica al signore del... Anche un po', vediamo un po', parla un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meglio, forse non aveva memorizzato il comando, dai, adesso va bene. Attento Marco, a me intendi? Sì, Anto, ti copio, sei a metà segnale, però la radio è buona. Ehi, AK! Ah, veramente mi andrà a bruva, adesso ho fatto la prova anch'io. Antare, mi copi? Ti copio. Ehi, già vanno bene, già. Questo è il Baofeng, quello non guido che ha giù comparato, questo è l'altro, Vanno bene, me ne ha fatti male a me, quei due... Capito? Escono benissimo, ci sono addirittura, ce ne sono scelti che escono addirittura, che hanno una rea allucinante, diciamo. Dipende dalla memorizzazione, cioè da come è stato caprato, capito dentro, la taratura. Dipende chi le ha fatti, dipende. Io ne ho avuto due, mi manco già se ne è accorto. Quando è gelati, c'è stato Antonello, esce meglio quello che l'altro, mi ha detto. Ma di potenza, quello lì è quello che mi devi far sentire, vero Marco? Aspetta, è arrivato un po' più basso tu. Parla in 27. Guarda bene, mi senti adesso? Peggio. Io sento peggio. Sì, ma lo sai Antonio, io ho il ripetitore qua, mi fa battimento. Ah, ecco. Marco, vuoi provare questo con la mattina? Vediamo come si riceve. Magari un cesso, quello che vuoi, come ha parlato, te lo riceve. Condor, sì.